Dicola zolte, zolte, zale face. Dicola zolte, zolte, zale face. Dicola zolte, zolte, zale face. Dicola zolte. Dibone poluo, poluo ya morena. Dicola zolte, zolte, zale face. Dicola zolte, zolte, zale face. Dicola zolte, zolte, zale face. Dicola zolte. Dibone poluo, poluo ya morena. Dicola zolte, zolte, zale face. Dicola zolte, zolte, zale face. Dicola zolte, zolte, zale face. Dicola zolte. Dibone poluo, poluo ya morena. Boki dicola zale face. Dicola zolte, zale face. Wodi woni pulu ya morena bo. Dibone puluoni bo. Dibone puluoni bo. Pulu ya morena. Wodi dikola zuhle tsale fatshe. Dikola zuhle tsale fatshe. Wodi woni pulu ya morena bo. Dibone puluoni bo. Dibone puluoni. Dicola zolte, zolte, zale face. Dicola zolte, zolte, zale face. Dicola zolte. Dibone puluo, puluo ya morena. Dicola zolte, zolte, zale face. Dicola zolte, zolte, zale face. Dicola zolte, zolte, zale face. Dicola zolte. Dibone puluo. Dicola zolte, zolte, zale face. Dicola zolte, dibone puluo.